Cantine di Franciacorta. Ben ritrovati, oggi siamo all'antica fratta a Monticelli Brusati per incontrare l'amministratore dell'azienda Marcello Bruschetti. Antica fratta controllata da Berlucchi produce 350.000 bottiglie l'anno, la quasi totalità sono bollicine. A Marcello Bruschetti chiediamo di descriverci la sua visione del futuro per antica fratta. Piccola azienda all'interno del gruppo Berlucchi non può, a mio avviso, che diventare un'azienda che fa dell'esclusività la propria bandiera, quindi produzione limitata, autolimitata, perché avremo la possibilità di produrre di più, ma non vogliamo produrre di più perché l'esclusività passa per una produzione limitata, di qualità elevata, con una personalità che stiamo cercando di costruire, che a mio avviso manca ancora nel mondo delle bollicine, che è una personalità molto glamour. È tutto, alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.